Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, per quello che può valere, fermo restando che l'anno è ancora lungo, ufficialmente anche l'Italia esce dalla recessione. Il dato di oggi dell'Istat infatti conferma un primo trimestre in cui il PIL è cresciuto dello 0,3%, però la variazione è dello 0,3 rispetto agli ultimi tre mesi del 2014, è nulla, quindi zero rispetto ai primi tre mesi del 2014, quindi il congiunturale è più 0,3, ma quello che si chiama tendenziale anno su anno è ancora zero. Detto ciò, è scomparso il segno meno e quindi tecnicamente l'Italia rispetto al trimestre precedente è fuori dalla recessione, così come l'area euro. Questo va detto, che ho fatto notare che nei primi tre mesi la crescita dell'area euro è molto simile a quella italiana. Eravamo abituati a un'Italia col segno meno o ferma, mentre un'Europa con il segno più. Più 0,4% la media, più 0,3 Germania e Italia, più 0,6 Francia, più 0,9 Spagna, meno 0,2 Grecia, a dimostrazione che lo stallo greco si è ripercosso pesantemente sul PIL ellenico. La Grecia infatti veniva da una serie storica di crescita economica del PIL, e chiaramente questo il blocco anche dei trasferimenti, dei pagamenti, tutte le misure che Tsipras ha messo in atto e quelle che non ha voluto mettere in atto, insomma lo stallo con l'Europa, hanno portato la Grecia di nuovo in recessione. Detto ciò, è la prima volta che l'area euro dal 2011 cresce più degli Stati Uniti, più 0,1 hanno fatto i primi tre mesi gli Stati Uniti, e della Gran Bretagna, più 0,3%. La Gran Bretagna infatti ha rivisto le stime sulla crescita nel 2015, sono però molto positive: dal 2,9% di crescita del PIL è scesa al 2,5%, averlo un 2,5% noi, e ha rivisto anche comunque la crescita per l'anno prossimo dal 2,9 al 2,6 e per il 2017 dal 2,7 al 2,4. Dovremmo essere anche fuori dalla deflazione, dicono alcuni. Non è vero, perché l'Istat segnala che ad aprile siamo tornati in deflazione, meno 0,1%, vengono riviste tutte le stime. E poi ci sono le 6 raccomandazioni che l'Unione Europea manda all'Italia, 6 i capitoli delle raccomandazioni, come spiegavano i nostri GR24 dell'Unione Europea all'Italia. Oltre ai decreti attuativi sul fisco, l'Unione Europea chiede misure per rafforzare il mondo bancario entro il 2015, e poi riforme istituzionali, la riforma della pubblica amministrazione e la riforma che dovrebbe ridurre la lunghezza dei processi civili, poi un piano per i porti e per la logistica, delle nuove misure per il lavoro e l'agenda per la semplificazione. Tra l'altro, nonostante l'atteso contributo, dice l'Unione Europea, il suo atteso contributo alla riduzione del debito, l'attuazione di un piano di privatizzazioni presentato dalle autorità italiane è in corso in ritardi, cioè è in ritardo. Come risultato, nel 2014 le privatizzazioni sono ammontate allo 0,2% del PIL, sotto lo 0,7%, in effetti previsto. In effetti ci permettiamo di far notare che il governo Renzi sarà anche molto impegnato, è stato molto impegnato con la riforma dell'Italicum, però sono molto in ritardo sia la riforma della pubblica amministrazione, sia la riforma della burocrazia, che tutto il tema delle privatizzazioni, che non vuole dire solo le quote delle grandi partecipate, Eni, Finmeccanica, Enel, ma vuol dire anche le municipalizzate. C'è molta attesa per capire quale sarà il piano di cessione delle quote delle municipalizzate. Comunque, e anche sulla spending review vorremmo sapere cosa sta capitando, tant'è che la stessa Bruxelles dice: attenzione, i risparmi ottenuti dall'Italia nell'efficienza della spesa pubblica non rispettano quanto indicato nel programma nazionale. Debolezze serie anche su come vengono utilizzati i fondi dell'Unione Europea. E ancora potrebbe arrivare, sempre in tema di bilancio italiano, lunedì sul tavolo del Consiglio dei Ministri il testo del decreto legge con il quale il governo restituirebbe la quota di perequazione delle pensioni bloccata dal governo Monti, quindi slitta da venerdì a lunedì, questo secondo le ultime indiscrezioni. Parleremo dei due aspetti, cioè da un lato dell'economia europea, dall'altro delle raccomandazioni più legate all'economia italiana, in due appuntamenti distinti nel corso di questa puntata, uno subito poi dopo le 18, così come avremo l'approfondimento che ieri non siamo riusciti a mandare in onda, dedicato invece alle fuoriuscite, alla massa di licenziamenti, di perdite di posti di lavoro che hanno subito anche i dirigenti di questo paese. Parleremo di borsa e anche dell'ENI, vedo già alcuni messaggi sull'intervento di Grillo. La borsa fa più 0,45% mentre Parigi fa meno 0,41%, Francoforte meno 1,20%, Londra meno 0,13%, il Dow Jones invariato, euro su dollaro a quota 1,1350, quindi in rafforzamento. Da noi va particolarmente bene, ha fatto il botto il titolo Moncler più 9%, e ne parleremo, UbiBanca più 5,30, Buzzi Unicem più 2,70, Salvatore Ferragamo più 2,60, il 2% guadagna Intesa San Paolo e anche il Banco Popolare, Mediobanca più 1,90, Pop Emilia Romagna più 1,5. Chi va male oggi? Mediaset, dopo i conti diffusi ieri, e la raccolta pubblicitaria risultava piatta, meno 5,40%, poi Jux perde 2,50%, ancora male Autogrill meno 2,50%, Luxottica meno 2,13%, e ancora Estima Cretonics meno 1,80%, Campari meno 1,50%, Monte dei Paschi meno 1,1%, Unipol Sai meno 1%, come Prismia nella Pop Milano. Devo dire che l'effetto dei dati sul PIL dell'area euro è stato limitato, nel senso che inizialmente le borse avevano reagito bene, poi sono prevalse le singole storie. Milano è ancora l'unica che si mantiene leggermente positiva con lo 0,33% di rialzo. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, vedo tanti messaggi che dicono, ma insomma, dov'è sto PIL in crescita? Io tutto il giorno lavoro, molti di voi ci scrivono frasi di questo tenore, visito le aziende, mi muovo nelle imprese e questa crescita non c'è da nessuna parte. Allora, qui vanno dette un po' di cose. Intanto il PIL è in crescita rispetto all'ultimo trimestre del 2014, ma rispetto a un anno fa è a zero la variazione, per cui bisogna anche prendere con le pinze il dato. C'è un segnale di accelerazione, siamo entrati diciamo nel 2015 con un incremento del PIL. Se uno poi confronta la situazione di adesso rispetto a quella di un anno fa esatto, è uguale, e in effetti quindi hanno ragione gli ascoltatori a dire: noi questa ripresa non la vediamo, c'è solo come dato congiunturale. Dopodiché, attenzione, anche qualora arrivassimo al più 0,6% su base annua stimato dal governo quest'anno, lo 0,6 è frutto di un insieme di componenti. È molto probabile che molti ascoltatori non vedano questo 0,6, anche perché 0,6 è poca cosa per vederlo in maniera così netta. Ed è anche probabile che altri ascoltatori vedano ancora invece imprese, società in difficoltà, non solo non in crescita ma addirittura in calo, perché purtroppo è una media, ed è una media così debole, lo 0,6, che non ti permette di riscontrarlo diciamo nella tua attività professionale. Però a noi serve, perché se veramente venisse confermato uno 0,6 su base anno, questo permetterebbe di avere un deficit PIL più basso come rapporto e maggiori margini, al netto di quello che sarà la misura del governo sulle pensioni, di cui parleremo fra poco. Però proprio su questi dati si concentrano oggi 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore. La firma è del vice direttore Alessandro Plateroti. Per curare il tuo giardino scegli gli attrezzi di qualità stile Viking. Scopri le promozioni e i rivenditori aderenti su stile.it e amailtuoverde.it. Vi presenta i 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Plateroti. Ma l'economia europea è ripartita o no? E l'economia italiana è al passo con quella degli altri, soprattutto con i nostri cugini spagnoli, portoghesi e soprattutto i cugini d'Oltralpe francesi? I nuovi dati sul prodotto interno lordo del primo trimestre del 2015 sono sicuramente incoraggianti, fra crescita marginali, siamo sempre sotto l'1% come eurozona, però quel più 0,3% messo a segno dall'Italia è sicuramente il primo vero segnale che anche il nostro paese, per quanto in difficoltà e lentamente, comincia a riagganciarsi alla ripresa degli altri. Vero è che ci sono state grandi sorprese, come l'economia spagnola che è decollata letteralmente, o quella francese che è cresciuta più del previsto, quella tedesca che è cresciuta meno del previsto, ma c'è un denominatore comune fra tutti quanti questi paesi. Per la prima volta da tanti tanti anni sono i consumi interni ad aver spinto il prodotto interno lordo europeo. Questo è un fatto positivo, soprattutto perché ormai da anni, fra le paure di deflazione e la paura di stagnazione degli acquisti delle famiglie, si temeva che la crisi economica europea potesse prolungarsi, e in particolare quella italiana, più del previsto. Bene, dati incoraggianti, ma che cosa c'è alla base? Sicuramente il calo del prezzo del petrolio ha fatto un po' da catalizzatore, è stata un po' la spinta in più che hanno ricevuto tutte le economie dell'eurozona. Ma potremo contare a lungo su questo prezzo del petrolio basso? Per ora gli economisti dicono di sì, ma come sempre forse è meglio ricorrere un po' alla vecchia saggezza contadina e dire: mettiamo a posto casa, facciamo fieno in cascina, ovvero riforme e soprattutto riforme che aiutino l'economia a ripartire e l'occupazione a tornare a crescere. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Restiamo sul tema, perché guardando la classifica diffusa oggi da Eurostat vediamo che l'Italia e la Germania hanno fatto più 0,3% di crescita nei primi tre mesi, sempre rispetto agli ultimi tre mesi del 2014. Poi meglio di noi la Francia più 0,6, la Spagna più 0,9. Poi ci sono paesi minori che comunque, insomma, faccio l'esempio della Romania, più 1,6, e di Cipro, è più facile, veniva da periodi negativi, più 1,6%. La vera sorpresa è, ripeto, la Grecia, sorpresa per modo di dire, ma calcoliamo che la Grecia fino alla fine del 2014 continuava a crescere come economia, e invece meno 0,2%. E poi il dato sulla Gran Bretagna, che è fuori dall'euro, più 0,3%, e il dato sugli Stati Uniti più 0,1. Non basta una rondine per fare primavera, ci mancherebbe, però oggi di questo ha parlato anche il commissario europeo Moscovici nelle raccomandazioni all'Italia. Prima di tutto però ascoltiamo Moscovici sulla Germania, in cui ieri l'ha fatto il Fondo Monetario, oggi lo stesso commissario europeo, che dice: la Germania, visto che ha una situazione particolare di avanzo di bilancio, quindi la differenza tra entrate e uscite è positiva, questo giustifica la nostra sottolineatura e la nostra raccomandazione per la Germania di accrescere ancora di più gli investimenti pubblici in infrastrutture, educazione e ricerca. Deve spendere un po' di più la Germania, ma non spendere, ripeto, per gli altri paesi, spendere internamente, perché questo, all'interno di un'area economica unica, l'area euro, dovrebbe servire a riequilibrare, e comunque anche dal punto di vista dei principi è corretto: i paesi col deficit devono risparmiare, i paesi col surplus devono spendere un po' di più. Moscovici sulla Germania. Nous avons formulé des recommandations spécifiques pour tous les États membres sauf 7. Abbiamo formulato delle raccomandazioni specifiche per tutti gli Stati membri, salvo per 7 paesi. Visto che la Svezia, il Lussemburgo, la Germania, i Paesi Bassi e la Slovacchia sono pienamente conformi al patto di stabilità e crescita, abbiamo deciso di non emettere raccomandazioni nei loro confronti. Come sapete, la Grecia e Cipro sono ancora sotto il programma di assistenza finanziaria e quindi non sono inserite in questo pacchetto. La metà degli Stati membri è chiamata a riformare innanzitutto il sistema pensionistico per garantire la stabilità dei conti nel lungo termine, considerando le specificità di ciascun paese. Dal punto di vista della fiscalità, tutti i Paesi membri, tranne 9, sono oggetto di raccomandazioni. Le eccezioni sono la Danimarca, l'Estonia, la Finlandia, Malta, i Paesi Bassi, la Romania, la Svezia, la Slovenia e la Slovacchia. Gli altri 17 sono stati invitati ad adottare misure specifiche, per esempio ridurre la pressione fiscale sul lavoro e combattere l'evasione fiscale, una lotta che è comune a tutti i Paesi. Abbiamo anche individuato ostacoli agli investimenti ed è per questo che molte raccomandazioni puntano esplicitamente a migliorare il contesto economico. La situazione specifica della Germania giustifica, secondo noi, una raccomandazione particolare per accrescere ulteriormente gli investimenti pubblici nelle infrastrutture, nell'educazione e nella ricerca. Nelle infrastrutture, nell'educazione e nella ricerca. Ora, va anche fatto notare che però questi dati arrivano, ma non è per essere gufi, a parte che noi il gufo l'abbiamo avuto per mesi, anni, per cui è un animale a cui teniamo molto e non me ne frega nulla se il premier ogni volta che qualcuno non è d'accordo dice che è un gufo, ma noi ci teniamo al nostro gufo, l'abbiamo avuto per anni. Lo facciamo anche sentire. Non è per essere gufi, dicevo, però facciamo notare che questi dati si sono ottenuti con un petrolio che nei primi tre mesi dell'anno è costato circa il 30% in meno rispetto a un anno fa e un euro che vale circa il 10% in meno rispetto al dollaro, per cui si sono ottenuti in una delle finestre migliori possibili. Comunque, professor Francesco Daveri, che insegna politica economica all'Università di Parma, buonasera. Buonasera. La sento molto bassa, adesso facciamo alzare il livello del microfono. Allora, sorpreso del più 0,3 e che comunque noi siamo in linea con la Germania e con la Gran Bretagna e con gli Stati Uniti, oppure lei è più dell'idea di quello che scrivono moltissimi ascoltatori, ma quale ripresa, sono balle, la media di Trilus, la statistica che inganna, insomma io avrò anche molti gufi in ascolto, ma non è che stia ricevendo messaggi, diciamo, entusiastici sulla cosa. Professore, prego. No, beh, per poter spiegare un po' il fatto che i suoi ascoltatori hanno ragione e nello stesso tempo però ci sono i numeri che fanno fede, che dicono qualche cosa, in effetti c'è da fare la distinzione che faceva correttamente prima tra dati tendenziali e dati invece trimestre su trimestre. Di fatto, per qualche ragione, quando ragioniamo dei dati di tutta l'economia, ragioniamo sui dati trimestrali, anzi la definizione di recessione è sempre rispetto al trimestre precedente. Quindi finalmente abbiamo un più 0,3 da questo punto di vista, si tratta però di dati destagionalizzati, cioè tirando via la componente stagionale, gli effetti di calendario, tutte cose che le aziende non fanno. Invece le aziende normalmente prendono il trimestre di adesso e confrontano col trimestre dell'anno scorso. Da questo punto di vista il dato da registrare è lo zero, che però è meglio del meno 0,3 che c'era fino allo scorso trimestre e rispetto ai trimestri precedenti che ci davano sempre dei meno 0,5, dei meno qualche cosa, e adesso abbiamo questo zero. Quindi hanno ragione gli ascoltatori che telefonano e dicono, soprattutto quelli che lavorano magari nelle piccole aziende, dicono: ma qui noi non vediamo ancora niente. E però nello stesso tempo il dato che viene suggerito dal confronto rispetto al trimestre precedente, depurando da Natale, che è una cosa un po' strana da fare, ma è quello che gli statistici fanno, e depurando dai saldi, è che qualche cosa di più consistente di quello che ci si aspettava si vede finalmente nei dati. E qui bisognerebbe forse fare un monumento in ogni piazza dell'Europa a Mario Draghi, perché questo è un po' il riassunto della cosa. Sì, lei fa bene a notare che, attenzione, il congiunturale è una cosa, il tendenziale è un'altra. Qualcuno mi scrive: ma cosa ti state dicendo? La Francia è più 0,6 ma non ha rispettato i parametri del 3%. No, non c'è, la Francia ha avuto dall'Europa la possibilità di non rispettare i parametri del 3%. Facciamo notare però che il debito francese nulla a che fare con il debito italiano, siamo intorno all'85% del PIL, adesso vado a memoria ma poi ve lo ritrovo. Su questo faccio anche notare che c'è la finestra temporale importante e non è detto che si mantenga a lungo. Tra l'altro l'Istat ci fa sapere che la crescita acquisita comunque per il 2015 è dello 0,2%. Questo è importante perché vuol dire che se anche nei prossimi 9 mesi nel senso di trimestri, e quindi tre trimestri facessimo zero, finiremmo l'anno con un più 0,2, la crescita già portata a casa. Il Ministero dell'Economia e Finanze dice è a questo punto a portata di mano l'obiettivo dello 0,7%, il ministro Padoan dice siamo alla svolta, viene colta la finestra dell'opportunità, però Daveri, diciamocela tutta, ma questo è merito, allora le nostre imprese hanno avuto dei dati record sull'export nel 2014 e vanno e continuano ad andare avanti in questo modo anche nel 2015, quindi onore e gloria alle imprese che continuano ad aumentare le loro esportazioni sui mercati e adesso dovrebbero avere una mano in più anche dall'euro, però per complessivamente dato, quanto è merito di petrolio meno 30%, euro meno 10-15% e quanto è merito nostro? La risposta vera ce l'avremo quando ci abbiamo la distinzione tra consumi, investimenti e esportazioni, bisogna aspettare ancora un mesetto. Intanto possiamo però dire qualche cosa sulla base delle informazioni che ci sono. Mi sembra che le vendite in realtà nei primi tre mesi, che sono un modo, le vendite al dettaglio, che sono un modo per misurare come sono andati i consumi, non siano state proprio super. Quindi mentre Natale era andato abbastanza bene, però invece questi primi due mesi non sono andati bene, marzo un po' meglio. Quindi credo che se questo ci dice qualcosa sui consumi, ci segnala che forse i famosi 80 euro sono ancora lì da qualche parte parcheggiati nei risparmi degli italiani più che non invece nei carrelli della spesa o magari nei concessionari delle automobili piuttosto che dei, non so, da Media World, nei negozi del largo consumo dell'elettronica e cose simili. Quindi questa è una cosa. Dall'altro lato, insomma, se l'export non facesse bene in questo periodo con l'euro dove è e poi con i bassi prezzi delle materie prime che sicuramente favoriscono paesi manifatturieri, a dispetto di tutto il nostro continua a essere un paese a forte vocazione manifatturiera e con forte capacità di essere presente sull'estero, insomma mi aspetto che una buona parte di questo 0,3 venga ancora dai mercati esteri, anche se il contributo dai consumi si vedeva già anche nel quarto trimestre, quindi non sarà un contributo zero, sarà leggermente positivo. E ripeto, siccome la media è anche la media di Trilussa, e cioè un uomo a due polli, l'altro zero, la media dice un polo a testa, questa è una media, intanto è debole come dato, cioè c'è il segno più, siamo tutti contenti, ma è debole. In secondo luogo vedremo come vanno i consumi, mi scrive adesso un rappresentante di prodotti alimentari, mi dice va peggio dell'anno scorso, tutto questo ed è uno dei decine di messaggi che sto ricevendo di questo tenore. Attenzione, le due cose purtroppo non sono in contraddizione, ci può essere parte dell'attività che va o che non cresce o che va addirittura peggio l'anno scorso e avere un dato complessivo di crescita del PIL che vale sia per le aziende che esportano e per qualche ripresa dei consumi. Vedremo lo scorporo, ha ragione Daveri, fra un mese dei due dati, e quindi da contributo del PIL all'export e contributo del PIL dei consumi interni. Intanto grazie, e grazie quindi a Francesco Daveri in collegamento con noi. Adesso c'è il meteo e la pubblicità, poi arriviamo alla borsa, alle richieste fatte all'Italia, ne parleremo nella seconda ora del programma, e anche agli licenziamenti nei dirigenti non della pubblica amministrazione ma del settore privato. State ascoltando un programma offerto da Made in Steel. L'acciaio mondiale si incontra a Fiera Milano dal 20 al 22 maggio. Focus Economia. Da 7:38 minuti di nuovo in diretta, poco fa le dichiarazioni anche del Premier Matteo Renzi. Oggi i dati dell'Istat parlano di un più 0,3, ma non serve a niente tornare a crescere se non torniamo a crescere nelle scuole. Il video infatti era il video sulla buona scuola. L'Italia non sarà mai una superpotenza diplomatica, geografica e demografica, ma potrà tornare ad essere una superpotenza culturale. Tutto giusto, ci faccio sapere anche come va il piano sull'edilizia scolastica, perché per andare a scuola l'importante è poter, oltre che andare a scuola, tornare anche dalla scuola in cui si è andati ed evitare che crollino i soffitti. Dunque, di Telecom parleremo invece, il titolo è salito dopo la conferma da parte di Wimplecom, delle trattative con Hutchison Whampoa per far convolare a nozze contro le italiane Wind e 3, e questo ha mosso tutto il mondo delle telecomunicazioni anche in Italia, visto che adesso stiamo arrivando alla borsa. Telecom alla fine però ha ritracciato sostanzialmente al 2%, all'1,2%. Andiamo alla borsa. Allora, oggi giornata abbastanza altalenante, nel senso che dopo i dati sul PIL che abbiamo appena commentato, le borse europee erano tutte ben orientate, poi invece hanno ritracciato. Parigi meno 0,26, Francoforte meno 1%, Londra più 0,1, l'America invariata, Milano più 0,46%, euro a quota 1,1370. Moncler più 9,13% e poi UbiBank più 4,90, Buzzi Unicem più 2,60, Ferragamo più 2,60 anch'esso, Intesa San Paolo più 2,20, Banco Popolare più 1,70, Mediobanca più 1,50 come la Pop Emilia Romagna, l'1,40 lo guadagna Azimut, Eterna, Eleonora Micheli, Radio Colli, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Moncler. Sì, Moncler sin dalle prime battute di questa mattina si è messa in evidenza. La società ha diffuso conti ieri a borsa chiusa che sono piaciuti molto agli analisti e al mercato. Del resto l'utile è volato del 70%, sfiorando quota 40 milioni di euro, e il fatturato è salito nei primi tre mesi dell'anno del 30%, oltre 200 milioni di euro. Si tratta di risultati superiori alle attese, e infatti la reazione del mercato è stata più che evidente. Sì, più che evidente, è arrivata al 10%, poi comunque fortissimo rialzo. Sul fronte opposto invece c'è Mediaset, che è il peggior titolo tra quelli a maggiore capitalizzazione, perde quasi il 5%, il 4,90%. Sì, nonostante ieri sempre a borsa chiusa la società abbia annunciato di essere tornata in utile, se l'anno scorso nei primi tre mesi dell'anno aveva accusato un rosso di 12,5 milioni, quest'anno ha realizzato 700 mila euro di utile sul ricavo. Lieve crescita dell'1%. D'altra parte, diciamo, gli analisti hanno puntato più che altro l'indice sull'andamento della raccolta pubblicitaria, che purtroppo nei primi tre mesi dell'anno ha registrato un calo dell'1,6%. I manager hanno inoltre detto che di aspettarsi nel secondo trimestre del 2015 un miglioramento della raccolta, ma evidentemente il mercato non ci crede più di tanto. In più, sempre gli investitori si aspettavano qualcosa di speculativo a livello di operazioni straordinarie, invece niente di tutto questo sembra affacciarsi quantomeno a breve all'orizzonte di Mediaset, dunque questo ha scatenato gli ordini in vendita. Sì, sul titolo ancora, per quello che riguarda, molti mi chiedono dell'Eni, va bene, c'è stata oggi l'assemblea degli azionisti dell'Eni. E De Scalzi, numero uno, detto reggiamo anche con un greggio $60, siamo primi tra le compagnie petrolifere per total shareholder return, quindi quello che, diciamo, è il guadagno degli azionisti a livello complessivo, presente in assemblea il 57,6% del capitale, i soci con quote superiori al 2% erano e sono la Cassa Depositi e Prestiti, che ha il 25,7%, il Ministero dell'Economia, che ha il 4,3% dell'Eni, e poi la People's Bank of China, che ha il 2,5% dell'Eni. Il presidente dell'Eni, Emma Marcegaglia, ha parlato di un sacrificio, riferendosi al taglio del dividendo, sacrificio nel breve termine per voi azionisti, ma è importante per assicurare il futuro dell'Eni, è stata una scelta coraggiosa e molto discussa. E poi l'intervento che è rimbalzato su tutti i siti, quello di Beppe Grillo come azionista, che ha parlato di un Eni come sistema, che ha dato vita a un sistema corruttivo di portata internazionale. Il presidente Marcegaglia ha detto: stia attento anche perché a quello che dice c'è rischio. Quella, comunque, sentiamo questo passaggio. Dai. L'Eni da molti anni ha dato vita a un sistema corruttivo di portata internazionale. Si regge su tre gambe questo sistema criminogeno. La prima gamba è l'attività corruttiva vera e propria. È naturale quindi ricordare le inchieste. Il sistema di corruzione internazionale messo in piedi da Eni fuori dai confini, sì, nazionali. La ringrazio. e in particolare nel continente africano, è ormai sotto gli occhi di tutti, anche dei magistrati. Eni è accusata sia per le tangenti versate in Algeria al fine di aggiudicarsi la costruzione di alcuni gasdotti, e qui si parla di 200 milioni di tangenti per un controvalore dei contratti di 8 miliardi, sia per quelle versate in Nigeria per la concessione decennale dell'esplorazione petrolifera al largo delle coste nigeriane. I PM parlano di 215 milioni di tangenti per un controvalore della concessione di 1,9 miliardi. Nell'inchiesta dei tangenti algerine c'è la dentro pesantemente coinvolta la Saipem, come Varone, Orsi, Bernini, Pietro Tali, ex presidente di Addis Abeba, e Antonio Vella, responsabile Eni per il Nord Africa. E poi l'accusa all'Eni da parte di Beppe Grillo di sfruttare i paesi in cui opera, la risposta del numero uno di, che è Descalzi, Claudio Descalzi, che ha detto esattamente l'opposto. Ognuno, insomma, Grillo è liberissimo, è azionista, di intervenire. Devo dire la verità, per quella che è l'esperienza personale del sottoscritto, l'approccio che l'Eni storicamente ha sempre avuto dai tempi di Mattei nei vari paesi era un approccio molto meno colonialista, era proprio questa la forza dell'Eni di Mattei, che poi è andata avanti come, come diciamo identità di gruppo rispetto alle grandi compagnie petrolifere americane, britanniche, olandesi, insomma bisogna anche conoscere bene le cose, poi nei casi specifici non entro, dico solo che la storia dell'Eni parla chiaro su questo, l'approccio nei confronti dei paesi in cui va a operare era molto meno, diciamo, era molto più alla pari, questa era la forza che permise a Mattei di stringere contratti con le economie emergenti, quindi su questo, almeno come storia dell'Eni, mi sembra che la critica di Grillo sia ingiusta. Detto questo, poi ci sono le inchieste e Grillo stesso ha annunciato che ha chiesto una commissione di inchiesta al Parlamento su Eni e su Saipem. Ma non erano in discussione i conti oggi, infatti il titolo praticamente è invariato. Eleonora, resta con noi, adesso abbiamo il traffico. Focus Economia. Allora, Eleonora Micheli, dicevamo gli altri titoli oggi in borsa, oltre il caso Mediaset in negativo e Moncler in positivo. Restiamo su questo doppio binario. Autogrill continua a cedere, il 2,90%, oggi anche Luxottica, meno 2,50%, mentre bene UbiBanca, più 4,90%, e anche Intesa San Paolo, più 2,20%, e il Banco Popolare, più 1,70%. Eleonora. Sì, si muovono un po' tutte sull'effetto, diciamo, delle trimestrali, in particolare, come hai detto tu, Banco Popolare e soprattutto UBI hanno festeggiato i conti del primo trimestre. UBI in particolare ha chiuso con un utile di 75,9 milioni in aumento del 30,6%. È andata bene anche Banco Popolare, che ha registrato un utile superiore alle previsioni e pari a 209 milioni a fronte della perdita di 19 milioni dell'anno scorso. Quindi appunto sono titoli che sono stati movimentati più che altro dai conti del trimestre pubblicati tra ieri sera e questa mattina. Poi, come hai detto tu, invece Autogrill ha continuato a perdere quota, in questo caso sono le previsioni per fine anno indicati dai manager della società ieri, previsioni che non sono piaciute visto che sono nettamente inferiori alle attese degli analisti. Ad esempio l'EBITDA per la società si attesterà tra i 370 e i 380 milioni, quando invece il mercato sperava che fosse almeno superiore ai 390 milioni. Ancora sui titoli abbiamo Ferragamo più 2,60 che non ho citato, e Buzzi Unicem più 2,65%, c'è anche Popolare Emilia Romagna più 1,45%, Azimut più 1,40%, come Terna, Telecom diciamo più 1,12%. Su Telecom qui raccontiamo anche il movimento di Wind e 3, no? Esatto, indiscrezioni che sempre sono state più forti, confermate però dall'amministratore delegato di Vimpelcom indicano che tre Italia e Wind siano vicine a una fusione, di sicuro si capisce che c'è un riassetto nel settore delle comunicazioni, peraltro non solo in Italia ma anche a livello internazionale. Proprio ieri Verizon ha infatti comprato per 4,4 miliardi a All, dunque c'è un grande movimento che si reputa coinvolgerà tutto il settore. Ecco perché anche Telecom viene tenuta sotto stretto controllo. Peraltro ricordiamo che anche in questo caso si sta avvicinando il giorno dell'assemblea della società, fissato la prossima settimana. Allora, migliori e peggiori, Vita, società editoriale, più 9,95, Moncler, dicevamo, più 9,13, Fedon, più 7,30, Key Group, più 5,5, La Doria, più 5, UbiBanca, più 4,90, fronte opposto, Mondo TV Suisse, meno 7,80, Cassa del Risparmio di Genova, meno 5, Mediaset, abbiamo detto, e Mondo TV, Mar, meno 4,16%. Grazie, Eleonora Micheli, Radio Core, Il Sole 24 Ore. Allora, alcuni messaggi sull'ENI. Io non ho mai detto di assecondare i delinquenti se portano interessi economici. Non ho chi mi scrive che ci sono le ombre sul caso Mattei, ma cosa c'entra? Ci sono le ombre su come sia morto Mattei, con l'ipotesi avanzata che fosse colpa o ci fosse, diciamo, di mezzi e servizi segreti americani, e il fatto che stava rompendo le scatole alle grandi sorelle, alle sette sorelle americane del petrolio. Ma cosa c'entra il modo in cui Mattei operava nei paesi ex colonie? Lui tentò quell'approccio che, per quello che conosco io l'ENI, è rimasto nella storia aziendale dell'ENI. Non sto parlando delle singole inchieste, e su questo Alessandra mi scrive: tu non hai il coraggio di dire la verità, Grillo sì perché è una persona libera, e la può pensare come vuole su Grillo, fa il politico, io no. Però faccio notare che l'ENI, ci sono delle inchieste in corso per quello che riguarda Saipem in Algeria e Nigeria. Faccio anche notare che, se non ricordo male, l'ENI ha dei contratti che altri gruppi petroliferi non hanno. Per esempio in Nigeria opera per clausola il 60% dei dipendenti deve essere nigeriano degli stabilimenti ENI Saipem. Comunque, ognuno la pensi come vuole. Invece dall'ENI all'acciaio, iniziamo a introdurre il tema, poi ne riparliamo anche dopo, perché come ogni anno si terrà anche quest'anno Made in Steel. Noi siamo la seconda economia in Europa per la produzione di acciaio, ILVA permettendo, e si terrà quest'anno a Fiera Milano dal 20 al 22 maggio. È il principale appuntamento per il mondo dell'acciaio a questo punto in tutto il sud Europa. Ne riparleremo perché avremo modo anche di avere il presidente Federacciai e capire come va il settore. Intanto ringrazio Emanuele Morandi, amministratore delegato di Made in Steel. Buonasera Morandi. Buonasera dottor Barisoni, a lei e a tutti gli ascoltatori. Mi dia le novità, poi me ne ridà anche dopo perché siamo in chiusura, ma le novità di quest'anno? Le novità di quest'anno sono che vogliamo dire forte che noi nell'acciaio crediamo. Mm-hmm. Il nostro payoff è We Still Believe, proprio per sintetizzare che l'acciaio è un po' la metafora, come ha detto anche oggi il presidente di Federacciai Gozzi, è un po' la metafora dell'Italia. Se non riusciamo a capire dove andremo e cosa faremo della nostra Italia e quindi del nostro acciaio, non avremo molto futuro. Infatti una delle novità più importanti di quest'anno è proprio la forte riflessione che faremo l'abbiamo chiamata Industria Acciaio 2030, proprio per interrogarci su come saremo nel 2030 e quindi a ritroso per capire quali tipologie di acciaio potranno esserci utili per i consumi del futuro e quindi per l'industria del futuro. Allora io mi rendo conto che ci siano dei problemi, perché le previsioni di World Steel, resti con noi quindi Morandi, sul consumo d'acciaio nel mondo vedono un consumo destinato a crescere nei prossimi anni. L'Italia però a marzo come produzione d'acciaio abbiamo prodotto solo 2.095.000 tonnellate, è il peggior dato da 5 anni e tra l'altro è un meno 10% rispetto allo stesso periodo. Vorrei capire dopo il GR24 a che cosa è dovuto, immagino anche l'ILVA, a che cosa è dovuto questo calo forte della nostra produzione di acciaio, se sono motivi interni o anche motivi congiunturali. Resti con noi appunto Morandi, intanto GR24. State ascoltando un programma offerto da Made in Steel. L'acciaio mondiale si incontra a Fiera Milano dal 20 al 22 maggio. Focus Economia. 8 e 9 minuti riprenderemo il tema che abbiamo interrotto nella prima ora. Prima di tutto però, visto che ce l'abbiamo in collegamento, vorrei arrivare al tema già annunciato ieri, poi ieri saltato perché la puntata si è dilatata, chiaramente seguiamo anche la cronaca su questo, sull'andamento, ricorderete insomma, sui consigli per come presentarsi in banca agli imprenditori. No, vorrei parlare un secondo dei dirigenti, perché lunedì abbiamo ampiamente raccontato i dati dell'INPS, e anche qui difficilmente paragonabili a quelli dell'Istat e a quelli del Ministero del Lavoro, che segnalavano come nei primi tre mesi dell'anno siano stati attivati 1.330.000 contratti contro 1.000.000 chiusi, saldo positivo di 320.000 contratti, sempre l'INPS a ricordarci che sono 268.000 i contratti a tempo indeterminato. Ma gli occupati sono in calo, come ci ricorda l'Istat, sono 22.195.000 contro i 22.306.000, quindi da quello che riusciamo a capire continua a esserci un miglioramento nella qualità dei contratti che passano a tempo indeterminato, da CocoPro, da tempo determinato e quant'altro, sfruttando sia da gennaio a dicembre la decontribuzione fino a un massimo di 8.000 euro all'anno per 3 anni, sia dal 7 marzo l'avvio del Jobs Act. Oggi ci focalizziamo sulla categoria dei dirigenti, che trattiamo meno di altre, e giustamente mi fa notare un ascoltatore: attenzione, perché molti dei dirigenti italiani sono nella pubblica amministrazione e lì non ci sono, o in pubblica amministrazione partecipate dallo Stato, enti locali, e lì non ci sono stati esuberi. Quindi quando date la cifra ricordate che tutta la disoccupazione dei dirigenti si è scaricata o quasi tutta sul settore privato. Negli ultimi 10 anni il numero è diminuito da 460 a 400.000, 60.000 in meno, e ripeto, non stiamo parlando solo dei top manager con grandi e lauti stipendi, parliamo anche di dirigenti che hanno stipendi molto molto più normali, buoni per carità, ma molto molto normali. Si è arrestata questa emorragia negli ultimi 2-3 anni, anche nel 2014 ha chiuso con una contrazione dell'1%, ma se si prende il periodo 2011-2014 c'è stata una leggerissima ripresa nel mondo del commercio e dei servizi, nel nord-ovest e nel centro del paese, in modo marginale è ricresciuto anche il numero dei dirigenti nel settore dell'industria, della manifattura, un più 1,2%, che nulla toglie rispetto al calo pesantissimo. E questo emerge da una ricerca prodotta dall'Aldai. Siamo in collegamento con il suo presidente Romano Ambrogi, buonasera. Sera. Voi avete tra l'altro 16.000 associati solo, certo, in Lombardia, e aderite a Federmanager. Allora, oltre a questo, intanto qual è il motivo che ha portato a questa leggera ripresa? E come va la quota rosa all'interno di questi numeri? Grazie. Certamente la nostra situazione è difficile come lei l'ha dipinta, ma noi crediamo che sicuramente ci sia l'importanza non solo nei confronti delle persone che lavorano con questa responsabilità, ma soprattutto la responsabilità nei confronti dell'economia. Le imprese hanno bisogno dei dirigenti. Il fatto che siano stati fatti uscire è un pericolo proprio per la ripresa della nostra industria, e la nostra industria è sicuramente concentrata a Milano e nel nord. Quindi credo che il segnale vada seguito molto bene per quanto riguarda la nostra realtà milanese, anche se ovviamente noi, in quanto la più grande associazione aderente a Federmanager, abbiamo la responsabilità condivisa con tutti i colleghi. Questo è il primo punto. Poi giustamente lei osservava come la ripresa per quanto riguarda il settore femminile ha avuto qualche numero interessante, sicuramente interessante in termini percentuali, meno in termini assoluto, però è il segnale che la quota di donne del 25% nel 2005 sia ora al 29% ci aiuta a capire che c'è una modifica anche nella popolazione di questa frazione dei lavoratori. E questo, e quindi questo è comunque confortante, dal 25% al 29%. Senta, visto che comunque la situazione resta difficile anche per il livello dirigenziale, quali sono i meccanismi, i cambiamenti che complessivamente dati i dirigenti hanno messo in pratica? Spesso sono stati accusati di chi occupava posizioni apicali, posizioni alte, di guadagnare troppo rispetto ai risultati raggiunti e spesso di non assumersi mai la responsabilità definitiva quando le cose andavano male. Come lei ha ricordato, sì, la nostra popolazione è costituita in parte anche da top manager, che sono le persone che sicuramente hanno guidato le aziende con migliori o peggiori risultati a seconda dei casi, ma il grosso della nostra gente sono persone che sono dipendenti a tutti gli effetti, anche se collaborano molto strettamente con gli imprenditori e con i top manager. Questa gente ha messo in atto che cosa? Ha messo in atto prima di tutto una grande dignità. Io ho incontrato persone che per motivi anche strutturali sono state messe fuori e hanno una grandissima voglia di rimettersi in gioco. E il motivo principale strutturale su cui stiamo lavorando con fatica e anche con le associazioni delle imprese è quello di riuscire a ricostituire una fascia di dirigenti per le piccole imprese, perché le grandi imprese sicuramente con la nuova organizzazione del lavoro hanno bisogno di meno persone in posizioni di manager. La piccola impresa deve imparare ad affiancare, ad essere più managerializzata, certo, anche un manager professionista. Grazie anche a Romano Ambrogi. E adesso abbiamo ripreso invece l'ospite della prima ora del programma, della parte finale della prima ora del programma, e mi riferisco chiaramente, visto che parlavamo di acciaio, a Emanuele Morandi, amministratore delegato di Made in Steel. Morandi, le avevo chiesto se a fronte di prospettive di aumento dell'utilizzo dell'acciaio, come leggere il dato di marzo del primo trimestre in cui la siderurgia italiana ha fatto un meno 10% rispetto all'anno prima. È tutto effetto Ilva o c'è dell'altro? Diciamo che il meno 10% è l'effetto di un grande medione tra il meno 20 dei piani, quindi Ilva a F1, F5 chiusi, e il meno 4-5% dei lunghi. Questo però è il dato della produzione. In effetti il dato del consumo apparente è abbastanza positivo, nel senso che abbiamo chiaramente importato per compensare questo, però noi abbiamo un automotive e altri mezzi di trasporto con un più 20% nei primi mesi dell'anno, quindi un bellissimo risultato a fronte di una meccanica con uno 0 virgola e le costruzioni che sostanzialmente rimangono al palo. Quindi c'è un certo dinamismo, anche se ancora una volta si assiste a una, diciamo, diversa composizione rispetto a certi mix di materiali che vengono richiesti dal mercato. Quindi buonissimi alcuni settori, tipo automotive e altri mezzi di trasporto, ancora al palo altri. Allora, noi ci risentiremo anche col presidente di Federacciai. Intanto grazie a Emanuele Morandi. Il traffico e poi l'ultima parte, le 6 raccomandazioni arrivate oggi dall'Europa, da Bruxelles all'Italia, non solo all'Italia, ma a noi interessano quelle che riguardano il nostro paese. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Focus Economia. No need to love and cry. Dicevamo delle 6 raccomandazioni all'Italia arrivate dall'Unione Europea, chiede misure per rafforzare le banche entro fine del 2015, che arrivino i decreti attuativi sulla riforma fiscale, le riforme istituzionali, la riforma della pubblica amministrazione, la riforma per ridurre la lunghezza dei processi civili, un piano per porti e logistica e l'agenda per la semplificazione delle misure per il lavoro. Critica Bruxelles l'Italia perché nel 2014 le privatizzazioni che dovevano rappresentare lo 0,7% del PIL hanno rappresentato solo lo 0,2%, quindi c'è un ritardo su quanto promesso, e così come c'è un ritardo, dice Bruxelles, nell'attuare la spending review, i risparmi della spesa pubblica, si sono ottenuti solo progressi limitati verso l'efficienza della spesa pubblica in tutti gli strati del governo. E i risparmi, cito testualmente quanto scrive la Commissione Europea, i risparmi su cui si è legiferato finora anche a livello locale non rispettano quanto indicato nel programma nazionale di riforme. E poi il commissario europeo agli affari economico monetari Pierre Moscovici, che dice: non abbiamo cambiato idea dallo scorso 25 febbraio, non apriremo una procedura sul deficit italiano. Però dice Moscovici, vogliamo capire che cosa abbia intenzione di fare il governo italiano sulle pensioni dopo la famosa ormai decisione della Consulta. On the 30th of April, the Italian Constitutional Court. Il 30 aprile la Corte Costituzionale italiana ha sanzionato come anticostituzionale il blocco dell'indicizzazione delle pensioni più alte nel 2012 e nel 2013. Noi valuteremo l'imminente risposta del governo italiano a questa sentenza per poi decidere se sarà necessario o meno, in una fase ulteriore, un nuovo rapporto conformemente all'articolo 126, paragrafo 3 del trattato. Abbiamo avuto un primo contatto col ministro Padoan a margine dell'Eurogruppo e ci ha detto che nei prossimi giorni saranno adottate delle misure, ma questa è comunque una decisione della Commissione. Allora lì cerchiamo di capire anche noi, perché dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri convocato per lunedì il testo del decreto legge con il quale il governo restituirebbe la quota di perequazione bloccata dal governo Monti. Secondo quanto scrive oggi Sole 24 Ore, il decreto dovrebbe prevedere rimborsi a scalare per fasce con tetto tra 2.500 e 3.500 euro lordi mensili, un esborso complessivo di 3 miliardi e mezzo nel 2015. Dino Pesole del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora Dino, si conferma che tutto slitta da venerdì a lunedì e che il governo pensa di intanto perequare, cioè rimettere e indicizzare l'inflazione, la fascia che va fino a 2.500-3.500 euro lordi? Sì, sì, esattamente. Con ogni probabilità sarà lunedì il Consiglio dei Ministri e la soluzione è quella della selettività e dei rimborsi graduali per fasce di reddito. Occorre tener presente che questa probabilmente è una soluzione obbligata, perché l'impatto sui conti pubblici di quest'anno è notevole. Sì. Quindi in questo modo si riesce in qualche modo a minimizzarne gli effetti. E tra l'altro questi soldi da cosa sarebbero coperti, questi 3 miliardi e mezzo, Dino? Allora, per una parte si utilizza il famoso tesoretto di 1,6 miliardi. Ricorderemo tutti, ne abbiamo parlato nelle scorse settimane, è quello spazio che il governo ha ricavato nel deficit dell'anno in corso. Ovviamente non basterà. Ci sono due ipotesi sostanzialmente al momento per arrivare a 3 miliardi e mezzo. Quella di utilizzare, ma questa è una ipotesi secondo me poco fattibile, di utilizzare una parte degli incassi che il governo conta di recuperare attraverso il rientro dei capitali, attraverso il meccanismo che tecnicamente si chiama della voluntary disclosure. Però si tratta di incassi che, come è noto, possono essere contabilizzati solo dopo. Quindi è un po' complicato, è difficile che Bruxelles ci dia il via libera. E quindi probabilmente si farà fronte con un ulteriore ricorso alla cosiddetta spending review, cioè ci sarebbero 2 miliardi di tagli da iscrivere già nell'anno in corso, che non è proprio una passeggiata. No, ma dove? È il dove, appunto. Il problema è che la spending review di quest'anno non riesce a realizzare più di 7 miliardi e mezzo, e lo ricordo, 4 miliardi e mezzo, anzi alla fine sono più di 5, sono a carico degli enti locali e delle amministrazioni territoriali, mentre la dote dei ministeri è molto più ridotta. Probabilmente il governo proverà a incrementare il taglio a carico dei ministeri. Quello potrebbe essere una soluzione. Viceversa non si sa, perché e non a caso infatti il Consiglio dei Ministri prima era programmato per venerdì, adesso si parla di lunedì, qualcun altro dice potrebbe essere martedì, ma insomma questione di giorni e la copertura dovrebbe essere individuata. Ed è un passaggio fondamentale, perché senza quella copertura noi perdiamo i benefici della flessibilità europea. Questo è il punto, cioè l'Europa dice se non arrivi al 3%, se torni a essere intorno al 3%, tutta la flessibilità che va data ai paesi virtuosi che mostrano un percorso, diciamo, virtuoso nei conti pubblici, la perdi. Devo dire che oggi Bruxelles ha fatto anche notare che siamo in ritardo sia sulla spending review che, ricordavamo prima, i 6 punti esposti e confermati anche da Moscovici, sia sulla spending review, dicevo, che su altre riforme, la lunghezza della giustizia civile da un lato, e poi, sempre per citare quello che è, insomma, che sono i richiami di Bruxelles, o la misura per rafforzare le banche, le privatizzazioni. Ci si può aspettare un po' più di cassa sulle privatizzazioni, Dino? Beh, questo è un po' difficile perché il governo ha previsto di incassare attorno allo 0,7 del PIL, vale a dire circa 10 miliardi l'anno, ma come sappiamo il processo delle privatizzazioni e dismissioni è molto complicato, soprattutto in una fase di mercato in cui tu puoi vendere ma poi devi trovare qualcuno che compri. Detto questo, io penso che la trattativa in corso sia proprio quella relativa al beneficio che le riforme, quelle attuate e quelle che comunque dovrebbero essere attuate nei prossimi mesi, potrebbero aprire sul fronte del deficit dal 2016. Non a caso sia Moscovici che Dombrovskis hanno detto chiaramente a Padoan: noi ti diamo la flessibilità, ma tu devi darci la soluzione in tempi rapidi sul nodo delle pensioni. Devo dire, a onor del vero, che questa patata bollente il governo Renzi se l'è trovata, come dire, su capo e collo, e quindi certamente ha un po' rimesso in discussione l'intera strategia di politica economica che era stata immaginata solo qualche settimana fa col documento di economia e finanza. In questo, devo dire, non ha nessuna colpa il governo attuale. Questa è una polemica che abbiamo già sollevato. Se l'è ritrovata tra capo e collo, mi sembra che appunto anche tu confermi che l'ipotesi più probabile è di arrivare a 3 miliardi e mezzo, che sarebbero appunto, dovrebbero essere coperti, la cifra non è di poco conto, ma dovrebbero essere coperti nei due modi che tu ricordavi. Staremo a vedere, tutto si sposta appunto a lunedì. Grazie intanto a Dino Pesole, e quindi si conclude una puntata di Focus Economia in cui moltissimi di voi hanno criticato l'eccesso di enfasi. Ragazzi, più 0,3 è il dato, abbiamo spiegato in tutti i modi possibili che non basta questo dato a far cambiare la situazione e che il raffronto tra PIL dei primi 3 mesi del 2015 rispetto ai primi 3 mesi del 2014 è pari a 0, quindi la variazione è 0, è più 0,3 rispetto agli ultimi 3 mesi del 2014, il cosiddetto congiunturale. Vedremo, ripeto, quando arriverà lo scorporo del dato da parte dell'Istat, il contributo dei consumi e il contributo dell'export, perché è chiaro che se fosse solo export grazie al dollaro, beh, sarebbe una ripresa fragile, fragilissima, grazie all'euro debole, volevo dire. Comunque, da Sebastiano Berisoni vi auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.